Thank you. oggi il ciel da noi si onori, oggi il ciel. Thank you. amor le leggi. Ama se vuoi per tuo fasto l'onor, la gloria e il merito, e cerca in quell'oggetto carte per nobiltà, nome e virtute, ma con tua pace ama nel volto ancora, ed ama in esso il tuo piacere d'amorlo. Grembo alle foglie quella perché l'ama, che l'ama.